Lotto, lotta. Lotto, lotta. 24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica, non stop. E allora, presentandoci l'un l'altra, continuiamo con le letture. Quelle che andate a sentire sono delle letture prese dal libro Clandestina di Teresa Zoni Zanetti. Cazzo, stare fuori sì che è una menata, di quelle toste, il peggio che ti possa capitare. Mai più, mai più. Pensavo e ripensavo, mentre stringevo il mio fucile con accanimento. L'unico contorno pieno di quella bruma diafana che si alzava dai campi e che riempieva di inconsistenza la notte attorno. Le mani strette sul calcio e sulla canna, lo sguardo fisso sulla strada. Da quella curva potevano sbucare in qualsiasi momento pantere e gazzelle, in una giungla di controlli fuori orario. Passavano da lì ogni 2 ore circa, uno sguardo e uno sbadiglio in fondo ai campi, verso quella massa ancora informe di cemento armato e d'acciaio. Non valeva neanche la pena di soffermarsi o di rallentare, ancora troppo arretrati i lavori. In quella brughiera deserta e sconsolata non c'era ancora nulla che valeva la pena di essere veramente difeso. Questo avevamo intravisto nello sguardo annoiato dei Caramba e dei Pulotti di Ronda, perlomeno gli altri giorni. Io e Pepe eravamo entrati in azione appena dopo la ronda delle 11. Se tutto fosse andato come le altre sere, avremmo avuto 2 ore buone. Se invece per disgrazia fosse spuntata una pantera all'inseguimento del tragitto e dell'orario perduto, la scarica di adrenalina avrebbe invaso il mondo intero, congelando noi e il resto della radura. Pepe avrebbe deciso come e quando, ma saremmo dovuti sbalzare fuori dal nostro rifugio di terra umida, togliere la sicura ai fucili e garantire al nucleo d'azione di sganciarsi. C'era almeno un quarto dell'organizzazione lì dentro quella notte. No, no, impossibile anche solo pensare di non poter andare via. Loro avrebbero dovuto sganciarsi, a tutti i costi. Noi anche, dopo se possibile. Sbirciavo Pepe al mio fianco, metodico, uno sguardo alla strada, uno sguardo al punto dove avrebbero dovuto comparire i compagni, uno sguardo alle macchine piazzate sulla via di fuga, uno sguardo all'orologio. Perfettamente calmo, stringeva il suo fucile come se lì dentro ci fosse il carion perfetto di tutto il meccanismo. Io invece ero l'altra faccia dell'ingranaggio. Per me l'azione viaggiava da sola nella perfezione della sua dinamica, adagiata in quella radura come una semplice conseguenza alla nostra decisione. Stavamo lì, liberando la campagna da una presenza perfida. Stavamo liberando la gente dalla paura di un luogo di segregazione brutale. Stavamo difendendo la nostra possibilità di opporci realisticamente alla repressione. Sensi dilatati al massimo, scomparsa ogni linea di demarcazione con l'esterno, la mia percezione perforava tutto quello che esisteva lì, intorno, per chilometri e chilometri. Ero lì, ma vedevo i compagni muoversi svelti fra i pilastri del carcere. Vedevo lo sbadiglio del guidatore dell'ultimo bus che era passato 10 minuti prima, lontano sulla strada. Alzavo lo sguardo e immaginavo le persone dormire, sedate in quei brutti palazzoni di periferia che si stagliavano sullo sfondo della pianura. Galere anche quelle, ma più subdole e ingannevoli di quelle che stavamo minando. Su di me e su Pepe, precisione e intuito. Tutto il nucleo che era entrato in azione quella notte aveva riposto la sicurezza di portare a casa la pelle. There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Now I'm looking out my window, and what do I see? Che mai messo davanti, allora, che cioè, è sta cosa? Allora io così ho fatto un'incursione, cioè il momento della tresciata, ci si prepara alla tresciata, cioè che sono solamente, però non è che è solo la tresciata, è pure che, 07, è pure che c'è un problema a sto mondo, perché mo la possiamo tanto, pure tanto presentare, senti in due tanto vabbè, la possiamo pure presentare come la tresciata, la tresciata. Però per la verità cioè sono dei problemi cioè gente che c'ha un po' dei problemi seri, ma seri veri. E quindi vabbè, questo sito che sta sul web ha deciso di pubblicare le frasi di auguri alle donne, dicendo anche questa cosa, che per la festa della donna abbiamo pensato di raccogliere una serie di frasi utili a chi volesse fare i propri auguri alle donne in generale, ad una donna in particolare. Se parte subito. Vai. La moglie, la madre, la fidanzata, una collega, un'amica, una vicina di casa. Frasi di auguri per accompagnare un piccolo regalo o il classico mazzo di mimose. Si tratta di messaggi brevi ed immediati che possono essere facilmente inviati attraverso un SMS, vabbè, o un pensiero delicato alla portata di tutti. Ecco, allora, un pensiero per tutti. Chiaramente qua, cioè, si va su un livello di elaborazione notevole, proprio. Allora, che ne so, possiamo dire, cioè, a me mi ha colto l'attenzione una, posso dire? Beh, di. Questa qua. Lo sapevo. La donna è un essere la donna sottinteso, sempre. Non vanno manco a scrivere, già gli viene. Un essere delicato ma forte, dolce ma deciso. È una donna che prima o poi abbiamo tutti la fortuna di avere accanto. Auguri a tutte le lei. Cioè, siccome come è storia dell'uomo, si nasce sotto ai cavoli, prima o poi nella vostra passeggiata nell'orto sotto un cavolo vi renderete conto che al mondo ci sono anche queste strane creature. Senti questa. Donne, parola che vola nell'aria, parola che esprime amore, delicatezza e sincerità. Lo so che lascia un po' così. Scusate, devo farlo uno stacco. Sì, c'è fatto sapore il cammino, seguimos aspettando cada tierra, no solo donde nacimos, de quien trabaja y trabaja, consagración aprendimos, sembradas o flotantes, nunca nos rendimos. Direttongo pa tu cerebrongo, la sintaxi, la metafora con el dittongo. Sì, ecco, vi vedo. Poi arriva quello sfigato, poveraccio, che gli viene in mente di dirti buon 8 marzo a te e a tutte le donne speciali come te. Che fortuna. Poi poi c'è quello che dice blast, poi c'è Rosicone che dice: tesoro, oggi è la festa della donna ed è solo tua, ma ricorda i 364 rimanenti giorni sono per noi. Mia, sono per noi. Questo è il Rosicone, capito? Te lo devo dire. Sentire così accorta, sì. Papaya, la que le gusta la cobra, toda denunciando punta de esta vida la zozobra. Yo me revelo contra eso, me revelo contra el poder del sistema, me revelo. Ci sembra dalle vostre facce che avete trovato qualcosa di veramente interessante da raccontarci. Io non so se commentarle. Cioè, aspetta, perché io non so se commentarle queste cose. Però forse non so se andrebbero commentate, perché stiamo leggendo queste frasi da questa radio libera indipendente. Ok, allora leggiamo questa e diamo poi, un senso. Diamo un senso, perché sennò è troppo. A te, prendete appunti. A te, donna, madre, moglie, sorella, compagna, amica. A te, donna insostituibile, fonte di vita, sostegno, speranza, calore per uomini e civiltà. Mo. Non rimane così. Minuto di silenzio. Minuto di silenzio. Allora, perché? Dai, perché? Perché ti insilenzisci? Perché mi insilenzisci? Riacquisisci l'uso della parola dopo questo silenzio palese. Cioè, cos'è? Pure, che cos'è che ti colpisce a te di questa frase? Perché è giusto, allora, anche commentarla. Facciamo una specie di analisi logica. Cominciamo da qui subito. Cominciamo dall'elenco. Bravissima. Donna, madre, moglie, l'elenco, sorella, veramente... compagna, amica. Cioè, comunque tutte figure che vengono richiamate in un senso di pronto soccorsaggine. Accoglienza. Sì, ma poi voi. Accoglienza. Accoglienza, cioè. Nonché accollanza. Esatto. Accollanza altrui. Accogliamo, l'accogli. Che poi mi sembra sempre, no? Un po' di filosofia, no? Nel concetto della Beauvoir, il riferimento sempre all'altra persona, no? Ma cioè, sempre moglie, madre, sorella, esatto, compagna, no? Mai. Una cosa a sé, cioè un'entità a sé, esiste, ma sempre in relazione all'uomo. Ricopri uno di questi ruoli socialmente riconosciuti in relazione, diciamo, all'uomo, però, esatto, capito? Questo è quello che volevo dire. A te, donna, già nella stessa riga ben due volte, nel senso che non scappi. Donna, insostituibile fonte di vita. Insostituibile fonte di vita, diciamo che lo decido io se sono insostituibile. Può essere pure che un giorno facciamo uno sciopero. Voglio vedere che succede. Non scherzo, però, no? Ci auguriamo. Cioè, anche qua, insostituibile la vita, fonte di vita anche questo molto... modo di cominciare a avvicinare corpi e vite. Paura, sostegno, no? Sostegno, perché c'è sta sempre la cosa da cura. Il sostegno, speranza, che non si sa che vuol dire, ma poi chiude così: calore per uomini e civiltà. Questa terribile. È veramente terribile. Che sì, noi andiamo a lavorare tutto il giorno e a tenere questo mondo in piedi, sì, e le lasagne che ci fai quando torniamo a casa sono fantastiche. Cioè, calore, capito? Calore per uomini e civiltà. Civiltà, vabbè, poi non si sa che vuol dire anche. Sì, ecco. E civiltà. Ecco. No, insomma. Però c'è anche questa che. Cioè, non è che sempre. Bisogna dire che non è che sempre solo gli uomini sbagliano, perché questa pure. Immagino che l'abbia scritto una donna, perché dice: da donna a donna, auguri gialli e profumati. Gialli e profumati. La mimosa, praticamente, sarebbe. Ah, assolutamente sì. Fino a lì c'ero arrivata, nonostante lo sbigliottimo momento. Complicate e meravigliose. È che almeno erano un po' più colorati come auguri. Tanti auguri per una donna vera, bella. Vera, dolce, bella, intelligente, affascinante e sexy, capito? Cioè, tutte queste cose insieme, un miracolo. Wow! Faccio pure questa. Piangono quando sono contente, ridono quando sono nervose, trovano sempre la forza per andare avanti e un sorriso per tirarti su. Questo e tanto altro sono le donne. Io pensavo che finisse indovina. Ciao. Chi sono. È un quiz. Le chi è? Dai. No, vabbè, hai ragione, però così, perché per dare anche un senso di realtà rispetto a quello che gira sul web, perché questo invece non si è manco sprecato. Una mimosa virtuale gli avrà mandato, capito? Una il foto. Documento di Word con allegato il file immagine della foto scaricata da Google della mimosa fatta tutta a quadretti, quella tipo delle paginette dei ragazzini. No, terribile. Una terribile. Un'immagine fantastica. Virtuale. Sì, nel senso, questo è un po' purtroppo uno spaccato di realtà che esiste, quindi anche se a noi ci mette molta tristezza. Siamo qua perfettamente in allegria. Non siamo perfettamente in allegria, anche se siamo un po' stanca, anche questo c'è da dire. Se non ci sta portando niente. È vero, un po' di dolore. Però io dico che è importante tirare fuori anche questa oscenità, perché sono veramente delle oscenità. Per uno, commentarle, e due, in realtà purtroppo queste cose girano nel web e quindi si diffondono molto e quindi creano pure quell'immaginario che noi ci troviamo a combattere ogni giorno, che è un po', diciamo, il senso di quella frase lotto tutto l'anno, che secondo me significa lotto nella mia casa, lotto nel mio posto di lavoro, esatto. No? Perché la lotta è veramente una resistenza anche a tutto questo immaginario che si crea, no? Perché è chiaro che se te ogni giorno mi dici ma madre, sorella, compagna, cioè, no, luce, fonte di vita e tal, questa roba in qualche modo deve essere combattuta. Qualcosa che all'uomo non si dice mai, si dice mai compagno, padre, no? Cioè tutta questa costruzione di un immaginario sul maschile è molto più debole e quindi c'è un'imparità, cioè si vive sempre comunque questo squilibrio nell'immaginario, eccetera. Quindi un modo anche di scippare di nuovo l'8 marzo da questo scenario, nel senso che volendo noi abbiamo anche i nostri contenuti per riempire l'8 marzo di parole dignitosissime, al di là di quelle che ormai invece ci sbattono sopra, ai contenuti, a questa celebrazione veramente finta, no? Sì. Noi, a partire da quella che è effettivamente la data dell'8 marzo, per quello che ricorda, sì, che domani poi esatto, approfondiranno bene per me, infatti, molto bene, non anticipiamo nulla. Dopo rileggiamo un po' il palinsesto. Sì, certo, certo. Però appunto non che a noi manchino poi invece forse è anche brutto dire risposte a questo tipo di 8 marzo, perché non sono risposte, sono semplicemente le nostre parole, la massima manifestazione. Non abbiamo bisogno di rispondere a nessuno, ce lo determiniamo se vogliamo scendere in piazza, lo facciamo, se ci vogliamo far sentire lo facciamo. Questa maratona credo che ne sia anche una bella dimostrazione, quindi insomma. Sì, no, ma che poi chiaramente la maratona, così come è un momento per chiaramente esprimere tutto quello che viene oscurato spesso, quindi come poi tutto l'anno avviene in queste frequenze vengono riportate le parole delle donne, cioè quindi questa cosa del partire da sé, partendo da cosa hanno da dire, i loro racconti, le loro canzoni, le loro parole, penso che sia un po' questo, no? Cioè dare spazio a quello che noi abbiamo da dire, spesso che invece purtroppo ci troviamo a dover rispondere, a dire no, non siamo questo, non vogliamo essere altro, eccetera. Invece penso che la presa di parola in positivo, ovvero leggiamo quello che scriviamo noi, diciamo quello che vogliamo dire, siamo qua libere, parliamo delle cose nostre, è pure una possibilità di confrontarci anche tra noi, perché poi manca pure questo, nel senso che se te devi stare sempre a rispondere a qualcun altro, quando è che te ti confronti con quello che penso io, quello che pensi te, eccetera, rispetto alle nostre vite? Ma anche quando è che riesci a creare un immaginario comune, nella totale è sempre lotta. Quello è sempre risposta. Il passo di più che si dovrebbe poi fare, no? Però è il passo successivo, certo. Dopo il confronto, no? Dopo la possibilità di poter parlare insieme, dopo la possibilità di potersi esprimere, di potersi togliere tutta questa serie di categorie che sì, è vero, noi ne discutiamo e ne parliamo, però poi esistono realmente sul web, fanno parte della nostra vita e quindi sì, dobbiamo dare risposte che però giustamente provino a volte ad essere molto più propositive. Veramente la maratona del 24 la 24 ore dell'8 marzo è importante da questo punto di vista, perché ci unisce, ci fa vedere che altre cose sono possibili e realizzabili. Certo, no, ma infatti poi c'è questa frase che dice proprio così, no? Ma io mi sono trippata su sto sito, ma perché mi rende un po'. Beh, esatto, mogli, mamme, fidanzate, amanti, amiche, confidenti, quanti ruoli per una sola persona, auguri. Cioè, ma cioè, perché c'è anche coscienza alla fine. Anche no, sì, come quelli di molta coscienza. No, ma io sono maschio, io sono un po' femminista, perché io penso che effettivamente le donne sono meglio, perché io non lo so come fate voi a fare le cose. No, forse il problema è che siccome noi siamo in tante, forse sei due. Forse il problema è che tu ne fai queste cose. Il problema è che tu non ne sei fatti. Come quando sei in tre a chiacchierare e arrivano e ti dicono che fate da sole? Siamo in tre. Scusa, non siamo tre. Da sole noi. Ma perché sta maratona volete fare da sole, solo voi? Sì, esatto, sono tre. Questi stereotipi che però appunto in cui io credo che a parte noi che ci mangiamo quotidianamente la testa con queste questioni, perché insomma meno male. Però poi appunto, secondo me, casomai anche qualcuno che vagamente ci sta sentendo, casomai è un attimo poi che le smonti, no? Anche a una persona qualsiasi con cui riesce a scambiare due battute. Sì, sì, sì, poi per me poi anche riuscire a tenere alta l'ironia, nel senso, no, provare a decostruire, a cambiare linguaggi, a decostruirli, insomma ci sono una serie di strategie che il femminismo ha portato avanti e continua a portare avanti, e per me sono quelle buone pratiche che insomma, poi però dobbiamo andare a vedere idee legate per la festa della donna. Mettiamo una cosa, no, sì, sì, sì, sì. Per le idee prendiamo tempo per le idee regalo per la festa della donna. Regalo totale. Possiamo continuare. Ci sentiamo pronte. Allora, siamo incappati in qualcosa di allucinante, tragicomico, diciamo, direi, perché lo so che è dura, però questa cosa la dobbiamo proprio leggere, cioè questa rubrica... Perché abbiamo voglia di ridere, abbiamo detto tragicomico, ma qua è tragico. Tragico solo, però questa rubrica intanto si chiama tipo Lei e Lui, consigli per la vita di coppia, e già là ti dico, vabbè, normalone, però poi entra... Nello specifico della festa della donna. Il titolo è chiaramente Festa della donna, tradimento in agguato. Ecco. Tradimento in agguato. Sì. Alla festa della donna, no, ma senti. La festa della donna. No, questo è niente. Lo so che è terribile, però dobbiamo essere pronti ad affrontare questa lettura. Inizia così. L'occasione fa l'uomo ladro, ma anche la donna in certe circostanze. La ladra, quindi. È quasi scontato che oggi... No, quasi scontato che per festeggiare la festa della donna molte mogli, compagne o fidanzate si organizzano, cioè mai, si organizzino per delle serate da trascorrere tutte insieme in grande allegria. E ci inizia il fattaccio, capito? E già insieme in grande allegria. Allegra. Allegra. No. Hai fatto allegra. Magari in qualche locale. Addirittura. Magari assistendo a qualche spettacolo di spogliarello maschile. Vabbè. Magari con la voglia di divertirsi. Lo so, raga, è triste, lo so. Fate ste facce. In maniera diversa per una sera soltanto. Che sia una. Che sia una, però, eh. Ed è proprio grazie è a proprio congiunture tanto particolari che il tradimento potrebbe verificarsi. e secondo alcuni sondaggi. Quali poi? Ma io voglio sapere se no, i sondaggi vabbè, t'hanno presi. Sembra che sia accaduto soprattutto a donne la cui età è compresa tra i 30 e i 40 anni. Sappiamo anche. È chiaro, mettono le mani avanti. È chiaro che non tutte le donne che festeggiano l'8 marzo sono portate a tradire. Ah. Significa solo che durante quella serata chi è propensa a storielle facili potrebbe incappare nell'occasione giusta dimenticando tutto poche ore più tardi, cioè c'è una sorta di amnesia dopo. Si cancella col pischello, la pischella del momento. Agli uomini comunque suggeriamo di non preoccuparsi eccessivamente, soprattutto se sanno di potersi fidare ciecamente delle loro compagne. E direi che veramente questo è terribile. Sotto tutti i punti di vista questa è la strisciata molto più di quella di prima, che alla fine era una roba diplomatica. Avete veramente scoperto, era soft, avete ragazzi. Veramente trovato la tristezza è che qualcosa mi dice che se scaviamo potremmo andare non scaviamo però beh. Quello che mi viene da dire a me è, a parte questa, cioè come se ci fosse una un'impostazione diciamo naturale, non so come dirlo perché sono anche stanca, però della donna che quella che è portata a tradire, cioè tutte queste cose qua come se fosse del carattere però, caratteriale proprio dell'essenza tutto della donna, qualche ora capito? Dopo come se neanche sa quello che sta facendo, cioè, per questa... quello nonostante il mio dono della sintesi si stia andando spegnendo insieme al sorgere del sole vista la stanchezza, però se non mi sbaglio parlava tipo del fatto che si sarebbe potuta divertire, usciva sì, con esatto. le amiche una volta sola, era una volta sola, quindi queste congiunture astrali avrebbero potuto portare al tradimento. E poi sai, lei ti chiede la scusa dicendo ma non mi ricordo. No, e poi chiaramente include solo degli incontri al maschile, perché non sia mai che qualcuno si innamora di una femmina per esempio, cioè no. Queste cose no, vabbè certo, lontano, chiaro. Quanto stai avanti? Dai. Che lo so. No, lo so, però per dire, no, mo, cioè dai, ormai insomma possiamo farcela, no? Possiamo farcela, invece no, sempre il maschio, spogliarella al maschile, cioè comunque viene descritta una vita, no, anche questo c'è da dire per me, viene descritta alla fine da questo immaginare una vita delle donne che chiaramente non è reale, perché io spero che non ci sia così tanta tristezza, cioè perché forse alcune vite sì lo sono, però al di là di essere donna o uomo certe vite sono tristi, no, per scelte, cultura, cioè non lo so bene per quale motivo, perché io tendo a divertirmi, però qui proprio si arriva veramente a una narrazione della vita di tutte le donne che c'è, cioè, una tristezza terribile, no? È abbastanza e certo, direi. E come al solito anche lì lotta contro un immaginario di questo genere che ti porta a pensare, cioè ad impegnarti profondamente per farti credere che veramente pensi che è così triste la situazione. Sì. Vabbè, basta. La siamo fatta via male, no, comunque. No. Stiamo via bene. Stiamo via bene. I biscotti, oh. Mompiamo i biscotti, poi se leggiamo magari qualcosa di bello. Solo l'otto. martedì autogestito da femministe e lesbiche. Lotto. I'm home in the morning like my mother. siamo ancora qua, pensavate ci fossimo addormentate, invece continuiamo ad essere ai microfoni. Sono le 4:37 e vi ricordiamo che per l'8 marzo ci sarà la 24 ore dell'MFLA, che è già partita. Noi continuiamo il nostro viaggio sul nostro traghetto tanto caro che ci piace, e proviamo a leggervi il palinsesto per ricordarvi che cosa ci aspetta durante la giornata di domani. Alle 6 arriverà lo spazio del breakfast, che sarà fino alle 8. Ascolteremo della musica, ci saranno delle parole, ci risveglieremo piano piano. Tra le 8 e le 10 la rassegna stampa, dalle 10 alle 10 e mezza la presentazione della giornata della radio con le storie dell'8 marzo, con Edda Billy e con tutte le ragazze che continueranno ad essere, con le compagne che continueranno ad essere con noi in questa giornata. Tra le 10 e mezza e le 11 ci sarà lo spazio delle compagne del 22, separatismo Mon Amour, e fra le 11 e mezzogiorno e mezza la violenza degli uomini e delle istituzioni sulle donne e le intersezioni delle oppressioni di classe e razza. Tra mezzogiorno e mezza e l'una e mezza la maratona continua e c'è le donne nei media del 77, la rappresentazione delle donne e del rapporto tra i sessi, tra la radio e nella televisione. Tra l'una e questo, scusate, fra mezzogiorno e mezza e l'una, perché poi fra l'una e l'una e mezza ci sarà lo spazio con Be Free, poi l'MFLA e la maratona continua con l'audio radio di massa e poi un po' di musica per arrivare fino alle 14:15, dove ci sarà l'assemblea delle donne dei Castelli. Ancora un po' di musica e poi le connettive dalle 15 alle 15:30, con poi alle 15:30 alle 19 ci sarà un lungo spazio dedicato alle dirette dalle piazze. Proveremo a metterci in collegamento con tutte le piazze e vedere che cosa sta succedendo per questo 8 marzo. E poi ci saranno ancora Sorella Outsider, Le Cagne Sciolte, lo spazio dedicato a Tuba, le suggestioni lesbiche del CRL, per arrivare così alle 21, dove ci sarà ancora un audio delle Beate Lesbiche, e poi ci accompagneranno La Vera Femminista, un audio ancora, e per la mezzanotte la redazione dell'MFLA vi saluta dalla radio. Ma fino a mezzanotte ancora è lunga e continuiamo con un altro po' di musica. About the boy, I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a schoolgirl. Will it ever cloy? This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Siamo ancora qui, non ci siamo ancora addormentate, continuiamo ad accompagnarvi e vi leggiamo un'altra poesia. Quando arriva la notte si ascoltano chiavistelli, porte che si chiudono e il pianto soffocato di qualche cuore. Il pianto che duole fino a far ardere gli occhi e l'anima piange in questa prigione. Sono fredde le notti, ancora più fredda è la mia cella. Il mio cuore batte come un tamburo nell'oscurità. Mi angoscia il desiderio di stare con te. Non so se domani o forse tra anni o l'eternità. Io chiedo a Dio che abbrevi il giorno, così che la notte possa sognare di più. Poi una mattina le porte si aprono e dicono: te ne puoi andare, sei libera. No! siamo sempre qui e ascoltiamo ancora un po' di musica e intanto vi regaliamo ancora altre parole. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo la llevo. Allora, noi vogliamo continuare con le letture. Quello che vi andiamo a leggere sono degli estratti da un bellissimo libro che ormai, insomma, vediamo se ci riesco a vedere, è uscito sicuramente da una bella fracca di anni, tipo 2002, da Sensibili alle Foglie. Si chiama La carrozza di Treves, storie di donne e della loro follia. Fra il 1909 e il 1918, anno della fine della guerra e della disfatta dell'impero austro-ungarico di cui Trieste faceva parte, oltre 600 donne vennero ricoverate nel manicomio che, intitolato all'industriale Andrea Calatti, il popolo chiamava semplicemente il manicomio di San Giovanni, dal nome del villaggio presso cui sorgeva, come lo stesso chiamava la carrozza di Treves, la vettura della guardia medica che si occupava del trasporto delle alienate. Le loro storie rimangono a quella Trieste, alla città della borghesia con i simboli del suo potere e della sua agiatezza, alla città costituita dai rioni popolari dove vivevano quelle donne che nelle industrie, nelle case signorili, nei mercati, svolgendo lavori umili e faticosi, contribuivano al suo sviluppo, alla vita nei paesi contadini e poveri dell'Istria e di altre terre dell'impero. In esse si intrecciano malattie, dispiaceri, fatiche, dolori, desideri e sogni. E questo bellissimo libro l'ha messo insieme Diana De Rosa, studiosa di storia sociale all'Università di Trieste. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare folle d'amore. Credevo di essere una signora, invece sono povera e perciò fui accompagnata nell'ottavo reparto. Questa era stata la prima frase pronunciata da Maria Bergomas quando nel gennaio del 1911 era entrata nel manicomio di Trieste per paranoia allucinatoria. Era una donna di quasi 50 anni, ormai vecchia, piccola, denutrita e sdentata. Nata in un paese del Goriziano, aveva sempre fatto la serva, anche quando, sposata, si era trasferita a Trieste. Diventata vedova, era vissuta tranquillamente con una piccola pensione, fino a quando le era venuto il timore di venire derubata dai parenti delle piccole cose che possedeva. Era analfabeta e di limitata intelligenza, eppure aveva compreso qual era il destino che accomunava tutte quelle donne come lei che erano entrate e sarebbero entrate quell'anno e negli anni successivi in manicomio. Donne umili, di origini, di scarsa istruzione, casalinghe, contadine, serve, sarte, lavandaglie, venditrici di mercanti, portamalte, residenti nella città ma in gran numero provenienti da paesi slavi e italiani della contea di Gorizia, nel margraviato dell'Istria, della Carniola, da regioni più lontane dell'impero austro-ungarico e anche dal Regno d'Italia. Mentre la luna di lassù mi sta a guardare, guarda che luna, guarda che mare in questa notte. Dopo il periodo di ricovero, mesi, anni nei padiglioni del manicomio, trasferite nell'uno o nell'altro a seconda del comportamento tenuto che ne faceva delle tranquille, semiagiate o agiate, vi era il rientro in famiglia, oltre al trasferimento nel reparto dei cronici, l'invio nei manicomi di penitenza o la morte. Per alcune i ricoveri susseguono anche a distanza di tempo. Il guarito che accompagna il rilascio non è mai una garanzia, perché la donna ritornava nello stesso ambiente dove era maturata la malattia. Teresa Hartweger, 48 anni, apparteneva a una famiglia borghese triestina, rispettabile e agiata. Era stata ricoverata in ospedale con diagnosi di costituzione psicopatica isterica, dopo l'ennesima scenata avuta con il cognato presso cui viveva. La storia, da lei stessa raccontata, era in sostanza quella di una donna certamente nervosa, che sostituiva una presenza scomoda per i parenti. Così qualsiasi cosa, anche la più insignificante, poteva diventare la scintilla per violenti litigi, fino all'ultimo episodio. Dopo l'organizzazione di una festa, Teresa, in assenza della sorella andata in gita con un'amica, aveva avuto l'incarico di rimettere tutto a posto. Ma al ritorno a casa il cognato l'aveva rimproverata perché non aveva preparato bene il pranzo. Essa, citiamo, stanca delle fatiche del giorno precedente, cominciò a strillare e a piangere, dopo poco uscì di casa per comprare il bromuro. Il cognato la rimproverò di essere uscita in quello stato, quindi di nuovo battibecco, altri pianti, grida, rimproveri vicendevoli. Alla sera, al ritorno della sorella da Gorizia, il marito le disse che era ora di finirla con la cognata, che così non si poteva andare più oltre, che con quella col suo temperamento turbava l'armonia della casa. Nuova scenata fatta di urla, pianti e grida da parte di tutti, compreso nipote che nutriva un particolare antipatia per la zia. Nei giorni successivi la donna aveva continuato a piangere, a non mangiare e a dormire, perciò era stato chiamato uno psichiatra, il quale l'aveva convinta a farsi ricoverare. Essa aderì all'invito e consiglio del dottor Canestrini, ma poi capì che lei si intendeva un tranello. Era stato il cognato a suggerire al dottor Canestrini quell'idea e perciò si ribellò. Si ostinava a rimanere in casa e fece opposizione a tutti i tentativi di recarsi in frenucomio, mentre i congiunti, che dovevano partire, insistevano che entrasse nello stabilimento. Essa continuava a piangere nella sostanza. Finalmente, agli 8:10-7 si presentò a Treves con due infermieri e questi la inviò in modo brusco di seguirla. Essa si rifiutò, lui la prese per il petto e fece per trascinarla fuori dalla stanza e volle anzi metterle le cinghie. Essa protestò ad alta voce, lo chiamò villano ebreo, gli tirò un calcio. Allora il Treves accondiscese affinché cambiasse abito e poi la condusse in vettura al frenocomio. La tredicenne Giovanna Udovic, ricoverata con diagnosi di imbecillismo, la direzione del manicomio aveva pensato a una sistemazione in un asilo cittadino che accoglieva alcune convalescenti. La ragazza si trovava infatti da 2 anni in ospedale ed era tanto migliorata da potersi considerare sana, ma disgraziatamente non poteva essere consegnata alla madre perché non sarebbe stata sicura dal punto di vista della moralità. Si comunicava inoltre alla direttrice dell'asilo che era obbediente, docile, laboriosa, tanto in cucito quanto in cucina. Vestita decentemente, certo, le avrebbe fatto una buona impressione. Giovanna era stata scolare che disturbava in classe e per questo aveva dovuto ripetere la prima classe. Da allora si lamentava la madre, che era diventata bugiarda, ribelle, non ubbidiva, distruggeva la biancheria e perciò alla fine era stata portata nella divisione 8, dove aveva potuto studiare e fare la seconda classe. Anche in seguito, durante il suo secondo ricovero, si era mostrata tranquilla, rispettosa e disciplinata. Sotto la guida di un'ammalata, ogni giorno prendeva delle lezioni. Parla volentieri con tutte e di tutto quello che abbraccia il suo orizzonte ristretto. Da parte sua, la ragazza affermava che era stata portata di nuovo in manicomio perché girovagava per le strade fino a tarda ora e poi, per paura di pigliarle dalla madre, dormiva sulle scale. Ora l'avevano rinchiusa perché invece di lavorare preferiva andare con le compagne alla lanterna e fare il bagno. Per lei il ricovero era un castigo e il frenocomio di San Giovanni una casa fatta per quelli che non hanno giudizio. Sigh, a foggy lullaby.